strappo sui jeans, bomba in bocca come i 70s. Fai partire un beat, faccio i soldi senza chiederli. Paradise Lost, no non faccio il pop, frate faccio il rap e ci sfascio il clap. So qui da 2006, non mi sposto di un metro. Dalla birra allo champagne, dalla plastica al vetro. Il palco col fuoco, frate, è ancora quello in cui credo. Perché a fare il cassiere non mi ci vedo. E la verità è che tutto questo è più complesso di una collana, di una scarpa, di tutto il resto. Restiamo sulla stessa barca, in mare aperto. Prima eravamo in 60, ora in 200. Vogliono fottere con me, ma non hanno capito che a fare questa merda sono il re. Frate, non sono Michael Bublé. Vi accartoccio e vi metto in tasca Gile. No, no, no, no, non faccio un ritornello. Certe cose se vado dritto è meglio. No, no, no, no, non sono ricco e bello. Ti puoi comprare tutto, noi il talento. Siamo semplici, se brilla o splende lo mettiamo al collo. Perché da ragazzini qua non c'avevamo un soldo. Ho vissuto per 20 anni come un vagabondo. Adesso scelgo dove andare con il mappamondo. Yeah, yeah, yeah, giro sa canna la carico. La fume mi fa come un acido, mi scordo come mi chiamo e dove abito. In corpo c'ho un orto botanico, tengo il coltello sempre per il manico. Meglio se mi stai simpatico, faccio sto volo acrobatico, scrivo sto disco di platino. Non scordare gli occhiali da sole, ti porto lontano non si sa dove. Pensar da lei mi chiama campione, sulla base faccio le capriole. Questa merda qua non ha valore, perché arriva dritta dal cuore. Come Snoop che si gira un cannone, come Totti che gioca a pallone. Ho costruito le ali, non ci resto in gabbia. Tu fai il re dentro un castello di sabbia. Rimango fresco come l'aria all'alba. Sì, questa musica ti cambia. Metto la vodka in questa lattina di Fanta. E se mattina s'affida di non ti riguarda. Giro una cartina mentre la mia musa mi guarda. È solo lei che mi parla. Sì, questa musica mi salva. Sì, questa musica mi salva.